Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, anche oggi l'editoriale è firmato da un ascoltatore, una delle 140 mail al momento ricevute in nottata e poi in mattinata. È firmata Andrea Lusetti, arriva da Cavriago, provincia di Reggio Emilia, la leggo integralmente. Ieri sera, in quella rabbiosa corsa del capitano con annesso calcione finale all'abbronzato Balotelli, questo non è male, era come avere davanti agli occhi lo specchio dell'Italia di oggi. Un paese che, messo alle strette da capaci e organizzati avversari stranieri, invece di reagire con i mezzi e le doti che possiede, non sa far altro che scaricare la sua rabbia e la sua frustrazione nel peggiore dei modi. Dopo quel gesto tanto odioso quanto significativo, non potuto far altro che spegnere la televisione e cercare di recuperare un poco di bellezza e umanità ascoltando la voce di un romano de Roma e del suo Nino, che a 12 anni ha il cuore pieno di paura. E questo riferimento de Gregoriano direi che impreziosisce ulteriormente questa lettera deliziosa. Altre considerazioni personali che poi confronterò con un maestro di calcio già collegato con noi e già in ascolto. Per una volta comincio dall'arbitro, che ha tutta la mia comprensione per aver dovuto dirigere una partita giocata fin dall'inizio, come avrebbe detto Gianni Brera, da pecore matte. Però insomma Burdisso, Maxès, Perrotta avrebbero dovuto essere espulsi prima di Totti, al di là di qualche sconto tecnico e non disciplinare a un paio di giocatori dell'Inter. Totti in qualificabile. Se Paolo Montali, Giampaolo Montali, che è il nuovo dirigente della Roma che si occupa anche di comportamenti, si è definito stamattina, cioè ha detto stamattina, il primo a essere rammaricato per quello che è accaduto ieri sera è sicuramente Totti, ma nel finale di gara si è andati un po' oltre e queste non sono cose da Roma. Balotelli, altra considerazione, secondo me è fatto d'acciaio, perché prendere una scarpata di quella violenza e rialzarsi dopo un po', non dico come niente fosse, ma quasi, secondo me non è da tutti. Diego Milito è il più grande centravanti di questa stagione, io credo. Facciamo ex aequo con Rooney, perché poi non è che Rooney abbia combinato poco in stagione, ma forse Milito è andato anche oltre. E infine siamo passati nel giro di 3 giorni, sempre nello stesso stadio, l'Olimpico, da una farsa a una corrida. E io penso che il nostro calcio sia sempre più malato e più mi guardo in giro e meno vedo medici all'altezza di provare a guarirlo. Bentornato a Ottavio Bianchi. Buongiorno Gigi. Buongiorno. Senti, andiamo, se posso seguire questo stesso canovaccio, poi... vediamo un po'. Allora, io comincerei dall'arbitro, ripeto, massima comprensione perché sono le partite più difficili per mille e una ragione, però mi è sembrata un po' lassista la sua direzione. Ma io è uno dei pochi che l'ho seguito attentamente. Non è mai protagonista, è sempre dentro le righe, accetta il dialogo, non va mai oltre, è uno dei pochi anche a livello internazionale che si fa rispettare mantenendo la conduzione della partita dentro i limiti. Ieri era talmente paradossale la situazione, pronti via, che hai visto i primi falli dove lui era nettamente vicino, gente che alzava le braccia, che saltava, che urlava, che gli andava contro. Dalle panchine vanno a vedere i video, saltano dentro, insomma è stata talmente una cosa un po' strana che subito dall'inizio, da ambo le parti, che indubbiamente un arbitro che ritengo il migliore o tra i migliori italiani sia stato messo in difficoltà. Ma ancora una volta è stato messo in difficoltà dai protagonisti. Dalle pecore matte, no? Come avrebbe detto Brera. Lui dà proprio l'impressione di essere una persona troppo per bene per partite così esasperate. No, a me piace la conduzione così, non mi piacciono i protagonisti, mi piacciono quelli che vogliono dire no, io sono l'arbitro e voi siete i protagonisti, sono i calciatori. Certo. Neanche la panchina è protagonista, il calciatore nel bene e nel male, ecco perché dobbiamo veramente sottolineare con rammarico certi comportamenti, perché sono una partita. Sono due partite che potevano essere due partite estremamente interessanti in un campionato che non è il più bello ma il più difficile, e il comportamento ha vinto la squadra migliore, però la poteva vincere in maniera diversa, senza questo nervosismo che sicuramente non piace a nessuno. Certo. D'accordissimo. Inqualificabile, parlo sempre dal mio punto di vista, il gesto di Totti. Ho letto quella mail all'inizio che ho trovato splendida anche per è vero? Perché amplia, verissimo, no? Verissimo. Contro l'abbronzato Balotelli. Ora, come tu hai allenato, oltre ad aver giocato ad alto livello per tanti anni, hai allenato anche un sacco di bravi ragazzi, un sacco di campioni a cui ogni tanto poteva saltare i nervi, un sacco di pecore matte, insomma ti è capitato il campionario normale. Cosa scatta nella testa di uno di 34 anni che oltretutto ci bombarda in televisione da mattina a sera con messaggi positivi, rassicuranti, sdrammatizzanti, autoironici? Cosa gli scatta per fare una roba invereconda come quella? Veramente non, lo stesso pensiero l'ho fatto quando ho visto Zidane dare la testata a Materazzi. Una persona, un giocatore e un atleta, un uomo che io ho sempre identificato tra i più grandi. Quel gesto veramente non sono mai riuscito a capirlo. E come ieri sera questo rincorrere, perché sai, ma il rincorrere passa 10-20 secondi, rincorrere un ragazzo che sta lì, sì, sarà irritante, ma fa il suo mestiere, non ha fatto niente di che, stava solo facendo perdere tempo con grande abilità tecnica e stava facendo respirare la sua squadra. Non lo so poi cosa sia successo, perché qualsiasi parola ho letto che hanno detto, ma non è giustificabile un gesto del genere, specialmente in un atleta di spessore come lo è Totti. Vuol dire che però dobbiamo essere, non bisogna essere eccessivi nel dare addosso. Certo, bisogna sottolineare la gravità del gesto, che non fa assolutamente bene al gioco del calcio, anche perché il gioco del calcio italiano, non ha sicuramente bisogno, perché del danno se lo fa già da solo. Sì, non c'è nessun bisogno. Ha bisogno di questi episodi. E poi farci. Io mi sento italiano in grande profondità, andare all'estero ed essere identificati solo per le cose negative non è piacevole. Fuori fastidio. Visto cosa era successo pochi giorni prima con Lazio-Inter in questa partita. E adesso... Anche perché, forse questo è l'aspetto che mi compete un pochino di più, la Roma andando sulla rissa e andando sul nervosismo sicuramente ha avuto la peggio, non può competere con una squadra si è fatta male organizzata, da sola. Fisicamente dotata, abituata più della Roma. La Roma aveva solo la possibilità di giocare in serenità e giocarsi in velocità. Certo. Giocando con nervosismo e spezzettando il gioco non ha mai potuto entrare in partita, e questa è secondo me la chiave di lettura tecnica e tattica più importante. Perfetta. Scrive Francesco Totti attraverso il suo sito: in una partita di calcio, soprattutto in momenti così importanti della stagione, credo possa capitare di essere nervosi. Va anche detto che sul campo non sempre si riescono a ignorare offese così pesanti, dirette a infangare una città e un intero popolo, soprattutto quando questi continui e costanti insulti provengono sempre dalla stessa persona che fa della provocazione sistematica il suo biglietto da visita. Ha parlato Santa Maria Goretti a proposito di comportamenti in campo e di parole. Io credo che, l'hai presente Ottavio quel proverbio veneziano che dice se peso il tacon del buso? Grosso modo, No, arriviamo a Balotelli. Senti, io lo so che le entrate nel calcio che fanno male e che rompono sono diverse, sono quelle col piede alto, sono quelle, non sono i calcioni così violenti, però Balotelli ha preso una scappata comunque terribile, non ha fatto una piega. E, già che ci siamo, en passant, non voglio mettere in difficoltà te e nemmeno altri, no, che in questo momento hanno un ruolo molto delicato, però secondo me si è visto una volta di più ieri sera come questo ragazzo, ovviamente preso in una certa maniera, magari con tutor diversi da Materazzi, no, da quel che si era letto in passato, sia comunque una risorsa importantissima. Allora domando, che sia un allenatore o che sia un commissario tecnico, ma è proprio necessario avere una squadra o una nazionale fatta solo di bravi ragazzi, o è troppo facile se sono tutti bravi ragazzi e non è il caso di rischiare ogni tanto anche una testa un po' matta? Ma io ti dovrei rispondere come il tuo maestro, il Paron. I bravi ragazzi li mandiamo in chiesa. Io preferisco avere cattivi ragazzi ma che sappiano giocare. Poi se non lo so gestire la colpa è mia, perché in campo si devono cattivi ragazzi, per modo di dire, perché non credo che questi, anche con questi comportamenti, siano dei cattivi ragazzi, mm-hmm. nel senso, un termine un po' estremo, però io devo cattivi ragazzi nel senso con un carattere un po' diverso. Tu sai che da sempre i giocatori con carattere particolare sono quelli che difficili da gestire, ma sono anche quelli che ti, in certi momenti di difficoltà ti cambiano il corso della partita. Certo, se sono bravissimi ragazzi, disciplinati, in più sono anche bravi e sanno fare il numero al momento giusto, allora sono buoni tutti, però, a fare gli allenatori. No, insomma, da sempre, certo, io farei un po' un bel acuto piuttosto di dar colpi a questi ragazzi, perché è un po' tutti noi, esaltiamo certe situazioni o certi comportamenti, ne parliamo un po' troppo. Io ti assicuro, Gigi, che quando sento protagonisti parlare, dire cose, come dice il nostro amico Gianni, aria fritta, sì, spengo e voglio vedere quello che fanno sul campo, sì, l'impostazione, parliamo di allenatori, l'impostazione che danno sul campo, come gioca la propria squadra, i giocatori come si comportano, tipo Melito in campo, ma quello che dicono dopo, veramente, o certi atteggiamenti provocatori che siano più o meno studiati, più o meno furbi, più o meno teatrali, certo, più o meno da alto studio, veramente non mi interessano. Se facessimo tutto così, nel senso che sì, lasciamo perdere, guardiamo i fatti, guardiamo le cose reali, normalizziamo, e poi vedi che insomma certe cose si stemperano un po'. Gli allenatori da Actor Studio è un'altra di quelle non male. Oh, Milito, io credo che, certo, Vucinic gli ha regalato appena oltre la linea metà campo un pallone, no, non a lui, a Thiago Motta, che è stato bravissimo a pescarlo in profondità, gli ha regalato un pallone da non lo so da cosa, in una partita di quella delicatezza, ecco, però Milito anche ieri sera, no, con questo straordinario gol, ha dimostrato. Adesso qui, guarda, visto che oggi ti trovo particolarmente in forma, non che tu non lo sia abitualmente, ma oggi di più, perché non mi vedi, che non ti vedo, certo, no, allora te ne mollo un'altra. Supponiamo che tu non conosca il CT dell'Argentina e quindi non ti voglia mettere assolutamente in conflitto, perché non è questo lo scopo, mi viene in mente così. Cioè, secondo me, gente come Milito, Zanetti, Cambiasso, Samuel, che al momento non fanno parte di una rosa mondiale, insomma, è abbastanza sorprendente come dato. Guarda, Zanetti è stato il primo giocatore che ho allenato, sì, quando è venuto all'Inter, e ha fatto non so quanti anni, si è visto dal primo giorno che era un ragazzo di questa levatura, al di là delle capacità tecniche, ma proprio morali, che poi dopo ce li metti il fisico, e è un giocatore che è inutile parlarne bene, perché è la verità. Perché, certo. Ma quello che è stupefacente è questo giocatore Milito, che si è adeguato, ha trasformato il reparto offensivo in una mentalità, al di là delle indicazioni dell'allenatore, ma con un esempio come Milito, che è il primo difensore, attacca, sì, tutti, entra dietro la linea della palla, come dite voi, come dicono loro, di calcio. Certo. Io invece parlo di bel catenaccio centrocampo, certo, e voi parlate di ripartenze, io parlo di contropiede, però io sono datato, voi, beh, no, certo. Certo. Questo è un giocatore eccezionale, un giocatore che canta messa e porta la croce, sì, e in più fa dei gol, guarda che ieri, è vero, gli è andata una palla bellissima, ma dopo non c'erano in quattro contro di lui, che sì, hanno lasciato lo spazio per andare lì, è una cosa, sì, è grossolana come errore, però lui ha tirato il momento giusto quando stava per essere aggredito, l'ha messo lì, veramente riuscire ad essere consacrato a questa età è veramente, poi dà l'impressione, io non lo conosco personalmente, ma dà l'impressione di essere proprio un ragazzo estremamente intelligente, perché uno che gioca così deve essere anche fuori intelligente. L'ultima di quelle considerazioni di prima, poi c'è una sorpresina finale, è questa. Nel giro di 3 giorni siamo passati, dicevo, nello stesso stadio, da una farsa a una corrida. Prova evidente che il nostro calcio è sempre più malato in maniera variegata, e non si vedono medici all'altezza. Ovviamente, togliendoci il cappello di fronte alla vittoria dell'Inter, io dico che forse il sollievo, ieri sera ho fatto questo pensierino a fine partita, il sollievo è questo: tra 2 pomeriggi andiamo in vacanza, no? Cioè, mancano 2 pomeriggi, 2 domeniche, no, poi c'è la finale di Coppa Campioni, ma che è un'altra storia evidentemente, e poi va bene, c'è il mondiale quest'anno, forse servirà a rifarci la bocca. Ma bisogna vedere, perché io la finale di Champions League ritengo che, con l'inquadratura e con la convinzione e l'umiltà che ha l'Inter adesso, che gioca un calcio molto pragmatico, sicuramente dalla lezione dell'eliminatoria contro il Barcellona, dove avevano dichiarato, io parlo di dichiarazione dei lavori, sì, andiamo a giocarcela perché noi li attacchiamo a metà campo, si sono ritirati, hanno dato il possesso di palla agli avversari, ma il dominio del gioco l'hanno tenuto loro, anche perché certo, forse l'unico errore del Barcellona in quest'anno è stato quello di snaturare il proprio gioco, purtroppo facendo giocare Ibrahimovic in quelle condizioni. Il modulo d'attacco del Barcellona è svilito, perché è fatto di mantenimento di possesso di palla per trovare l'inserimento in verticale, però devono essere tipo Milito, Eto'o, Messi, Bojan e Pedro, altrimenti li dai a Samuel e Cili, gli dai un punto di riferimento fisso e tu non la becchi mai. Penso che l'Inter ha tutte le caratteristiche ormai, sapendo che non deve dimostrare niente, e parlando poco di bel gioco ma parlando molto di risultato, abbia moltissime possibilità di vincere anche la Champions League, a meno che in campo internazionale non vada dentro a litigare anche con le mosche, che lì non te lo perdonano, perché certo, certi atteggiamenti in campo internazionale si pagano, non te li lasciano fare. Però penso che ho visto che sono talmente attrezzati anche contro in questa situazione, che in campo italiano alzano le mani, saltano dalla panchina e fanno tutte queste cose, ma in campo internazionale un po' meno, e questo è un grande vantaggio. Ottavio, per quanto riguarda i campionati del mondo, sai, i campionati del mondo in 20 giorni bisogna vedere chi è i giocatori più importanti e le star fresche, perché è tutto lì. Se tu arrivi con i migliori giocatori del tuo organico, che hanno fatto 60 partite e sono arrivate decisamente stremati alla competizione, diventa più difficile. Un po' più difficile. Non c'è dubbio, Ottavio. Allora, senti, adesso ti diamo, come agli ascoltatori dall'altra parte, 4-5 minuti di intervallo. Poi ti chiamerò in causa ancora per un argomento, che è questo. Stamane il Sole 24 Ore è uscito anticipando il centenario della Nazionale, che verrà festeggiato sabato 15 maggio, anniversario della prima partita della storia dell'Italia. A Milano, all'Arena, Italia-Francia 6-2, 100 anni fa dunque partì l'avventura dell'Italia. Mi sono cimentato sul Sole, in una pagina che gli amici del quotidiano hanno realizzato graficamente in una maniera splendida, in una formazione di tutti i tempi che ovviamente fa discutere o fa ridere o quello che si vuole, come in tutti questi casi, no? Quando ci si deve confrontare con centinaia e centinaia di campioni. Allora io ti leggo la mia, poi ascoltiamo i suggerimenti per cioè le informazioni di borsa, e poi subito dopo ci risentiamo, e così mi darai invece la tua. Io ho fatto Zoff, Burnic, ho pescato ovviamente tra varie epoche, e questo appositamente, tra varie epoche e varie generazioni. Zoff, Burnic, Maldini, Tardelli, Cannavaro, Scirea, Bruno Conti, Giovanni Ferrari, Piola, Meazza e Riva. Vi dicevo della formazione azzurra di tutti i tempi. Stanno votando sul sito del Sole 24 Ore anche i lettori, devono stare attenti in questo caso non ascoltatori, ma lettori del Sole 24 Ore. Al momento la loro formazione, siamo a più di 2000 voti in davvero in poco tempo, la loro formazione ideale è invece Buffon, Gentile, Maldini, Tardelli, Cannavaro, Baresi, Conti, Valentino Mazzola, Piola, Baggio e Riva, e il commissario tecnico che prima io ho dimenticato di indicare in Vittorio Pozzo, due titoli mondiali e un titolo olimpico, è invece Enzo Bearzot. Mi sono dimenticato anche un'altra cosa, che era, io ho letto Meazza, in realtà il giochino che ho fatto è Meazza Rivera a staffetta, perché insomma mi sembra che questa, che è una delle invenzioni del secolo, dei brevetti del secolo italiani, andasse rispettata anche in una formazione ideale. Torno in compagnia di Ottavio Bianchi. Buongiorno Ottavio, ancora. Buongiorno Gigi, mi metti in difficoltà perché tu sai che io con le formazioni sono sempre stato fai fatica. Io voglio solo ricordare prima che comunque tu hai collezionato a tua volta due maglie azzurre nel 66, fu un Italia-Russia, Italia-URSS, perché allora era URSS, a San Siro 1-0 e una a Napoli subito dopo, Italia-Romania 3-1, quindi da ex azzurro. No, ma è curioso questo, perché è un gioco, perché bisogna anche, per sentito dire, mettere in formazione giocatori che noi non abbiamo visto, anche se siamo un po' sull'età, ma non li abbiamo mai visti. Certo. Però io sono, se tu mi dai una mano, provo. Però, allora facciamo così, secondo me Zoff di sicuro, Zoff, perché oltretutto è stato un mio compagno di squadra per tanto tempo, per tanti anni, Burri, Tarcisio sicuro, bene. Maldini sono d'accordo, tu hai detto Tardelli, io ho messo Tardelli in mediana, insomma, come uno dei centrocampisti, diciamo. Poi ho fatto Cannavaro Scirea anche per dosare un pochino le forze tra le varie epoche. Cannavaro non posso dire di no, perché l'ho fatto giocare io che aveva 17 anni, e quindi Scirea è stato un ragazzo che ha esordito quando giocavo nell'Atalanta, e ti devo dire che Scirea è intoccabile in quel ruolo. Fantastico. E Bruno Conti lo stesso, perché è stato secondo me il vero protagonista dei campionati del mondo dell'82. E qua io metterei Valentino Mazzola per quello che ho sentito, perché sì, dicevano che era un giocatore già universale allora. E poi centravanti sicuro Riva alla sinistra, davanti sì, io metterei certamente Rivera, perché Rivera in quella zona lì un rifinitore come Rivera sì, si va a nozze. Certo. Guarda, centravanti io ho una rosa che era Piola, Rossi, Boninsegna, Schiavio. Piola noi non lo conosciamo, però tutti è una leggenda. Giustamente metterei anche Piola. Però lì è un pochino più piena lotta, un po' più variare. Negli certo, altri mi sono un pochino più sicuro. Certo. Come sono sicuro in Bruno Conti, in Gigi Riva, in Scirea, in Zoff, in Bunis, in Maldini. Maldini non ha discussioni. Il resto ce ne sono tanti, certo, che si equivalgono. E pensa che Maldini non ha discussioni in un ruolo dove c'è stata gente come Cabrini, c'è stata gente come Facchetti, c'è stato Carigaris, c'è stato Piero Rava, cioè grandi, cioè, sempre a fidarsi, cioè, grandi esterni sinistri, come si dice adesso, grandi terzini d'ante guerra, eppure poi alla fine se devi giocare giochi, uno lo devi scegliere. Sì, ma poi indubbiamente guarda la carriera, perché oltre alle qualità fisiche, tecniche, intellettuali o tattiche, ci devi mettere la continuità. Questo ragazzo ha giocato, non ci dico quanti anni, ma sì, ha esordito a 17, ne ha finito a 40 a grossi livelli, e non può essere assolutamente messo in discussione. Ottavio, grazie per questo supplemento. Prego. Ulteriore anche. Grazie, prego, grazie. Al prossimo appuntamento. Molti ascoltatori ti reclamano spesso, e oggi molti sono stati, si dichiarano per iscritto, che scritta Manet, si dichiarano per iscritto felici di averti riascoltato. Arriviamo a che cosa? Arriviamo a un omaggio, direi, a un a un giocatore simbolo di ieri sera, e lo dicevamo prima, della stagione dell'Inter, e cioè il commento di Diego Milito. Sofferta, siamo veramente felici, siamo contenti, abbiamo vinto il primo titolo che c'era in gioco, adesso aspettiamo di vincere anche altri due. Sì, tranquilli, giorno al giorno, tranquilli, adesso affrontiamo il Chievo-Verona della miglior maniera, ovviamente questo ci darà ancora più morale, siamo troppo felici, adesso manca due giornate per chiudere il campionato. Sapevamo che sarebbe stata una partita così, la Roma è una grandissima squadra, le faccio anche i complimenti perché sono veramente una grandissima squadra che per il momento ci ha messo in difficoltà, però credo che siamo stati bravi a sfruttare l'occasione e poi abbiamo stato bravi a gestire bene la gara. Non solo grande giocatore, anche un signore, perché ieri sera, come sempre, come praticamente sempre, risse dappertutto, focolai, cose eccetera, Milito raramente presente, no? Protagonista mai, raramente presente nei momenti deteriori di una partita. 12 milioni di spettatori, per l'esattezza 11.695, pari al 40% di share ieri sera per la diretta su Rai 1. Un commento che certamente condividerete dell'interista, sì, ma soprattutto ministro della difesa Ignazio La Russa, che ha appena dichiarato: Inter e Roma hanno dato vita a uno spettacolo un po' rude in certi momenti, ma emozionante, che riabilita tutto il calcio italiano. E credo che non si possa non condividere questo commento alto. Roberto è in linea da Bologna, buongiorno. Ah, buongiorno signor Garanzini, premetto che sono un tifoso dell'Inter e volevo un suo commento e un suo parere. Io so che lei è stato molto critico verso le manette esposte da Mourinho, sì. Ma alla luce della partita di ieri sera, dove l'arbitro è stato l'assista davanti, io ritengo che, non so, faccio nomi, McSex, Perotta e chi è l'altro, Tadei dovessero essere esposti. Beh, anche Burdisso, prima le dirò, Ecco, anche Burdisso. Lei non ritiene che abbiano un significato diverso le mette di Mourinho? Cioè che ieri sera l'arbitro doveva mandarne fuori 2-3 della Roma. Certo, infatti se le faceva ieri sera restava un gesto bruttissimo da parte di un tecnico, ma almeno avrebbe avuto un fondamento. Invece contro la Sampdoria era del tutto gratuito e serviva soltanto a condizionare un arbitro. Ecco la differenza. Mario Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Allora, da milanista voglio dire questo, non posso far altro che ringraziare Berlusconi per quello che ha fatto in questi 25 anni da presidente del Milan. Sì. Però non posso negare che durante la conferenza stampa di Leonardo di venerdì mi sono commosso, emozionato nel sentirlo rispondere in quel modo alle domande che gli venivano poste, perché alla fine ho pensato che Leonardo forse è troppo un signore per restare in queste condizioni, in questo momento al Milan, insomma. E poi riguardo alla formazione, se mi permette, la formazione della nazionale che sì, ha letto prima, mi fa piacere che si sia corretto nella seconda parte quando ha aggiunto il nome di Rivera, che secondo me non merita staffette anche in questo caso. Certo, se lei sfoglia il quotidiano di oggi, il Sole 24 Ore, troverà Meazza e Rivera insieme, perché a staffetta, ma perché è stato un gioco, purtroppo quella provocazione lì la fecero nel 70, no? guastandoci il mondiale, certo. E quella non fu affatto una provocazione, quella di oggi è un gioco evidentemente, e quindi mi sono divertito a prendere il più grande talento dell'anteguerra, che è stato Peppino Meazza, e il più grande talento del dopoguerra, che è stato Gianni Rivera, e a fargli fare un tempo ciascuno, come purtroppo, ripeto, accadde nel 70. Scrive Roberto Mori, un'altra mail interessante. Totti Balotelli, a me è sembrato un ideale passaggio di consegne, scrive Roberto, dal ragazzaccio di Roma al ragazzaccio di Milano, tale quale a come era lui allora, no? Molto diverso se per questo, ma il concetto è interessante. Io penso che quando Totti ha visto Balotelli andarsene in dribbling per la seconda volta in pochi minuti tra tre avversari, lui abbia capito che il nuovo avanza e ha reagito con quella sconsiderata rabbia dello sconfitto. È una chiave di lettura, in effetti. Vabbè, e poi altre mail che troverò il tempo di sfogliare, no? Sì, perché c'è già un altro ascoltatore in linea, che è Mauro da Bergamo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. In parte, vabbè, avrei voluto parlare della gestione disciplinare, ma ha già ampiamente dibattuto la questione, quindi sposterò un pochino il tiro su altro. Mi ha molto, pur essendo io atalantino e non interista, mi sono quasi sentito interista ieri sera. perché mi ha molto sfavorevolmente impressionato la telecronaca, soprattutto di Collovati, il quale, ben lungi dall'essere romanista, sembrava avesse dei conti in sospeso con Mourinho, più che commentare la partita. Non so se lei l'ha notato. No. Questo. No, quando tipo sul fuorigioco di Milito, sul gol annullato, probabilmente anche giustamente perché era di poco in fuorigioco, subito, senza neanche guardare il replay, che ha detto no, questo è fuorigioco. Vuol dire che c'è l'occhio, non vuol dire che ce l'ha con qualcuno, vuol dire che c'è l'occhio, mi sembra un po' diverso. Altra mail d'autore, Lorenzo Germani da Pavia, scrive: stiamo assistendo a una serie impressionante di giustificazioni curiose, dal ministro che spiega dicendo di non sapere chi gli avesse pagato la casa, al capitano che si difende dicendo che è stato istigato da uno che fa della provocazione il proprio biglietto da visita. Ma perché il biglietto da visita di Totti com'è? Si domanda questo ascoltatore, ripeto, che si chiama Lorenzo Germani. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 6 maggio 1970. Il Feyenoord conquista a sorpresa la Coppa dei Campioni, battendo, nella finale di San Siro, il Celtic per 2-1 dopo i tempi supplementari. È la prima volta in cui una formazione dei Paesi Bassi si impone in una competizione europea. Inizia così l'era del calcio olandese, che avrà come espressioni massime l'Ajax e la Nazionale, con il loro calcio totale. Ma il trionfo del sorprendente Feyenoord è anche merito di un abile tecnico austriaco, Ernst Happel, che 13 anni dopo trascinerà un altro outsider, l'Amburgo, alla conquista del massimo trofeo continentale. Peccato non avere spazio oggi anche per il calcio internazionale, ma insomma tutto non si può fare, perché intanto Didier Deschamps ha guidato il Marsiglia allo scudetto francese, al titolo francese, conquistato ieri sera battendo il Rennes con un notevole vantaggio in classifica e con due giornate d'anticipo, quindi questa è un'impresa. A Marsiglia lo scudetto mancava da credo 18 anni, e comunque da un tempo immemorabile. Tre gol di Cristiano Ronaldo che hanno permesso al Real Madrid di superare lo scoglio di Mallorca ieri sera, che era un ostacolo molto ma molto alto, e questo significa che sabato il Barcellona deve ad ogni costo vincere a Siviglia, e non sarà certamente facile, visto che proprio Siviglia e Mallorca si stanno giocando la quarta piazza, che anche in Spagna vale la Champions. Alfonso Di Carlo scrive: dopo aver visto prepotenza e protagonismo dei tifosi in Lazio Inter, dopo aver visto ieri sera a fine partita De Rossi pregare l'invasore di campo romanista di uscire dal campo anziché cacciarlo a calci nel sedere, faccio una parentesi, secondo me ha fatto bene De Rossi invece, dopo aver visto i giocatori dell'Inter consegnare la coppa appena vinta a un capo ultra in modo che la mostrasse alla curva come fosse lui il vero vincitore, beh, dopo aver visto tutto questo tragga lei le conseguenze. Le ho già tratte, caro Alfonso, e da tempo anche, da qualche annetto. Marco da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo intervenire sul commento che ci stanno dei telecronisti di ieri sera, che secondo me avevano qualche conto in sospeso con l'Inter, perché dalle immagini si è visto benissimo che, almeno non voglio esagerare, ma due o tre persone della Roma andavano espulse già nel primo tempo. Sono d'accordo. Però io ho visto un pugno dato a Materazzi da Mexes. Due, io ne ho visti due, per la verità, ne ho visto uno in un'area e uno nell'altra. In entrambi i casi ho visto una sceneggiata di Materazzi degna di Materazzi, però il pugno c'era stato in tutti e due i casi, e quindi lì siamo d'accordo. E poi mi meraviglio molto, che io l'ho sempre ammirato, quando i giocatori diventano campioni del mondo per la nazionale, per me sono intoccabili, no? E devo dire la verità, come sono stati quelli dell'82, come sono stati quelli del 2006, con grossissime pressioni psicologiche. Beh, non fa... io credo che Totti lì sia stato, cioè lì deve andare a chiedergli scusa pubblicamente. Beh, su quello siamo d'accordo. Perché ha anche due bimbi. Sì, ma adesso lasciamo stare i bimbi, cioè, io credo che Totti e Materazzi, cioè, non li confonderei mai con i campioni dell'82, ecco, in ogni caso, non, io capisco che campioni, vincere, poi dopo uno, quando si esce dalla cronaca, si entra nella storia, i personaggi li qualifica o li squalifica, insomma, e credo che il tempo stia andando in quella direzione. Da Milano, Alberto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma intanto volevo magari dire un aneddoto, se è possibile, perché ho sentito la citazione della partita di San Siro Feyenoord Celtic, la mia età mi consente di esserci stato, devo vedere quella finale. Sì. E mi ricordo una cosa divertente, siccome il Feyenoord aveva eliminato il Milan in quella stagione, Milan campione d'Europa, quello di Rocco ancora. E io odiavo il Feyenoord perché aveva eliminato il Milan, quindi andai con avevo 15 anni, non sapevo niente, quindi presi la bandiera della Gran Bretagna e andai a fare il Celtic. Come ovviamente il Celtic è scozzese, a momenti mi ammazza. Non una gran mossa. Io volevo in realtà intervenire sui pestaggi, sulle risse dei giocatori, dicendo una cosa magari un po' controcorrente, ma io ho giocato per 15 anni in tornei serali con i miei amici, eccetera, che quasi, non dico tutte le volte, ma almeno una volta su tre, alla fine c'era qualcuno che si menava, qualche scappottata, eccetera. Nessuno si stupiva granché, ed era una cosa considerata in qualche modo parte del programma della serata, anche se non certamente edificante. Ed eravamo anche un po' grandi, non so come dire, questi sono anche dei ragazzi, per cui forse qualche volta si potrebbe anche, non dico ridimensionare, ma lasciare nella loro giusta dimensione questi episodi. Sono episodi di ragazzi e ci sono. No, Alberto. Questa cosa che si debbano essere l'esempio per tutto il mondo di come ci si comporta, io non so. Beh, ma dall'esempio di tutto il mondo, no? Come dice lei, al dopo lavoro, no? Per dei professionisti non ci sta. Anche Davide a Treviso scrive: incredibile parlare così tanto del gesto di Totti, si vede che parlate di calcio con un disgustoso buonismo e senza averlo mai giocato. Allora, Davide, le faccio rispondere da Paolo, sto per 28enne in pensione, si chiama Paolo Cecchetti, e le leggo una sua mail. Che scrive: qualche tempo fa, parlando con un ragazzino che giocava negli allievi, sono rimasto letteralmente sconcertato dalla disinvoltura con cui parlava di come era stato educato a picchiare, insultare e deridere l'avversario, cosa che mi ha fatto molto male, perché fino a quando ho giocato era uno stopper vecchio tipo, un duro, ma che non si lasciava mai prendere dalle provocazioni e che faceva dell'agonismo e della lealtà la sua bandiera. Ora, io credo che cioè, se vogliamo fare i buonisti, ad ogni costo facciamolo, ma se vogliamo raccontare le cose come stanno, i professionisti hanno delle regole che quelli degli scapoli ammogliati non hanno, no? E quindi queste regole sono, per esempio, che se Totti prende meno di 5 giornate di squalifica è uno scandalo, tanto per cominciare. E poi non si possono dare di questi spettacoli, educativi o non educativi non conta, di questi spettacoli comunque osceni. Io temo di dover chiedere scusa sia ad Emiliano da Brescia che a Massimo da Roma, che erano già collegati, ma sinceramente il tempo sta scadendo. Se vi diverte il giochino della Nazionale di tutti i tempi, votate sul sito del Sole 24 Ore. Se volete sapere gli arbitri delle due ultime giornate di campionato, della penultima, Inter-Chievo, l'arbitra Banti di Livorno, Roma-Cagliari, Bergonzi di Genova, e Palermo-Sampdoria, che poi è la vera partita clou di domenica, l'arbitra Rosetti di Torino. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, a Flavio Suardi e a Franco Piantanile in redazione. Buon pomeriggio.